Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, la narrativa made in Italy che piace all'estero. Il successo della saga di fantascienza Multiversum di Leonardo Patrignani. Sarà venduta anche in Gran Bretagna e Australia. Ivano Fossati sul suo primo romanzo. Non temo le critiche per il fatto che non sono uno scrittore puro, ma posso capirle. A Roma, dal 13 al 16 marzo, libri come La festa del libro e della lettura, tra gli altri John Grisham, David Grossman, Andrea Camilleri e Francesco Piccolo. Ogni tanto anche nel mondo dell'editoria possiamo dare delle belle notizie. La bella notizia è quando un libro italiano viene tradotto all'estero, ma non un paese qualsiasi, cioè quando i libri italiani, i romanzi italiani vengono tradotti in lingua inglese. Vi assicuro che è un successo strepitoso, perché insomma mentre riusciamo a esportare il cosiddetto made in Italy narrativo in paesi europei come non so la Francia, la Germania, l'Olanda, riuscire a tradurre un libro in inglese, quindi portarlo in Gran Bretagna, nello specifico questo di cui adesso vi parlerò è stato venduto anche in Australia, è veramente un risultato notevolissimo. E allora veniamo subito allo scrittore e al libro, anzi ai libri, perché dobbiamo parlare di una saga, di una trilogia. Lo scrittore è Leonardo Patrignani e la saga è Multiversum. 2012 è uscito il primo romanzo Multiversum, nel 2013 Memoria, la seconda puntata, e adesso, nel 2014 a febbraio, è appena uscito Utopia, quindi è l'ultimo volume. Allora, Leonardo, ho iniziato dicendo che riusciamo a portare un po' di Made in Italy, anche per quanto riguarda la narrativa nel mondo e nel mondo anglosassone, è veramente una rarità. Il tuo primo romanzo, diciamo, Multiversum, il primo, quello che ha dato insomma il titolo alla saga, verrà pubblicato in estate in Gran Bretagna e in Australia. Che effetto ti fa essere uno dei pochissimi scrittori italiani tradotti in Gran Bretagna? Ma vedo qualche mitra puntato attorno a me. No, a parte questo sono molto molto felice. Abbiamo segnato un bel gol, diciamo così, all'esordio. Era difficile, impensabile, credo, all'inizio, soprattutto per me, uno sconosciuto dal punto di vista narrativo. Tu sei uno narrativo. Scrittore giovane, insomma, sì. Hai 34 anni, insomma, hai scritto solo questi tre libri, insomma, però già sì. Col primo hai avuto un notevole successo. Sì, ha riscosso molto interesse, probabilmente grazie alla tematica. La tematica era abbastanza forte, in un periodo in cui gli scaffali erano invasi da creature, vampiri, licantropi. Forse serviva qualcosa di fresco nella narrativa, insomma, young adult, come viene definita, per cui per ragazzi. È arrivato il multiverso. E adesso parliamo poi nello specifico di multiverso, ma vorrei dire ancora un paio di cose per quanto riguarda le traduzioni all'estero, perché il tuo primo romanzo Multiversum e il secondo Memoria verrà tradotto fra un po', insomma verrà pubblicato in Francia ad aprile, sì. Niente poco di meno che da Gallimard, praticamente l'editore più prestigioso in Francia. Ci sono fior di scrittori italiani che pagherebbero oro per essere tradotti da e venduti da Gallimard, quindi insomma, complimenti. Grazie mille. Hanno lavorato veramente molto molto bene con il primo romanzo e adesso ho tanti lettori in Francia e ne sono veramente felice, ma non so una parola di francese. Quindi ma questo non è importanza, insomma. Veniamo però ai lettori italiani che ascoltano Il Cacciatore di Libri su Radio 24 e cerchiamo di dare un po' di coordinate su questa saga. Multiversum, Memoria e Utopia. Tutti e tre i romanzi hanno per protagonista un ragazzo Alex, che si trova a Milano, e una ragazza Jenny, che vive a Melbourne, quindi in Australia. In che modo sono in contatto fra loro, che poi insomma è il nocciolo della tua saga? Beh, tutto comincia da uno svenimento di Alex, un momento di crisi, quasi una crisi epilettica vera e propria, un attacco come lo chiamano loro. Alex e Jenny sono due ragazzi che sentono l'uno la voce dell'altra nella testa, nella mente, durante questi momenti di stati di incoscienza, chiamiamoli così. Si daranno un appuntamento su un molo, un posto ben preciso di questo mondo, un molo di Altona Beach a Melbourne. Alex attraverserà tutto il mondo grazie all'aiuto anche del suo migliore amico, che poi vedremo essere un personaggio fondamentale nella saga. Quando sarà però su questo molo, lui è lì, lei è lì, ma sono in due universi paralleli, quindi non si possono incontrare. Perché il concetto degli universi paralleli è il concetto che è alla base di questa saga, insomma. Sì. Lo diciamo subito, sono romanzi di fantascienza, perché qualcuno li ha definiti fantasy, invece in questo caso parliamo proprio di fantascienza pura. Sì, ne parliamo, perché a volte vengo collocato male, purtroppo, ma è un errore comune, abbastanza facile. Dunque, fantascienza bisogna sempre definirla in maniera appropriata, è una fantascienza moderna con, diciamo, un taglio cinematografico per ragazzi, ma anche per adulti amanti di Inception, di Matrix, di questo tipo di mondi narrativi, per cui anche di Fringe. Quindi non è una fantascienza classica, non siamo in Solaris per intenderci, però è una declinazione moderna di science fiction, come si dice, che amo particolarmente perché ti permette di essere molto avventuroso, quindi hai la suspense, hai il thriller, hai l'avventura, hai dei presupposti alla base dei poteri o delle facoltà dei ragazzi che sono presupposti a volte fantamedici, quindi mi sono abbastanza divertito, insomma, a creare questo tipo di presupposti. Non c'è quindi la magia che è propria del fantasy, ecco. Tu ti sei divertito, ma hai anche studiato molto, perché ho letto che ti sei messo proprio a studiare la fisica quantistica, pur non essendo tu uno scienziato, insomma. Sì, non sono assolutamente uno scienziato, come la mia collega Alicia Troisi invece, però mi sono messo a studiare, capendo il 60% forse di quello che leggevo, però applicando tutti questi concetti di fisica quantistica, quindi lo studio delle particelle subatomiche, alla narrativa. Per cui ho usato questo tipo di strutture per spiegare la mia storia, per raccontare gli infiniti scenari di questa storia, quindi mutuando da una letteratura abbastanza complicata quella. Quindi, insomma, per essere nel mondo di Multiverso, in questo momento io e te siamo in uno studio radiofonico di Radio 24, sì. Ma è possibile che io sia in un posto e tu sia in un altro. Sì, e in quell'altro posto io non ho mai scritto questa storia, probabilmente. Quindi non sei neanche uno scrittore. No, magari. Quindi non stiamo neanche chiacchierando del tuo libro. Esatto, perché di fronte a un bivio dell'esistenza ho scelto un'altra strada, semplicemente. Quindi ho deciso di fare in un altro modo, di dire sì o no rispetto a una richiesta. E ti cambia tutto, perché ti cambia da uno snodo, ti cambia l'intera vita. Per cui oggi invece sono qui e parliamo di questo romanzo, ma in una realtà parallela probabilmente sono in giro per il mondo, molto probabile. È bella questa idea, mi piace l'idea della realtà parallela. Invece io sono tipo alle Hawaii e probabilmente, esatto, sono in spiaggia a godermi il caldo. Forse la domanda è un po' stupida, è un po' banale, però quando si parla di mondi paralleli nella fantascienza c'entra anche il concetto del viaggio nel tempo, che ha sempre affascinato veramente generazioni e generazioni, sia di scrittori che di lettori. Assolutamente sì. Peraltro stai parlando con un fan accanito di Back to the Future, quindi c'entra assolutamente il viaggio nel tempo, anche se nella mia storia è contemplato, non è alla base della trama, chiaramente, ma avremo anche una parte di viaggio nel tempo nel momento in cui in Memoria, che è il secondo romanzo della saga, ci troveremo a viaggiare nei ricordi delle persone. E sarà un territorio di indagine, nel senso che Alex, per esempio, entrerà nei ricordi di sua madre, ricordi di un periodo in cui lui ancora non era nato, e lì scoprirà qualcosa di molto importante. Quindi questo è un viaggio nel tempo, però è un viaggio nel tempo particolare. Nella mia storia è un viaggio nel tempo in cui non puoi cambiare gli eventi, puoi solo osservarli, quindi trovare, non puoi incidere, non puoi incidere sul cambiare. Futuro, esatto. C'è però anche, insomma, una storia d'amore, un'attrazione fra Alex e, sì, Gianni. Forse per questa ragione l'hanno definito fantasy romance, insomma. Ma, sbagliando, sì, perché sbagliando, è un romanzo di fantascienza. Sbagliando, però li perdoniamo, perché sì, c'è una storia d'amore, perché comunque l'amore e l'amicizia, che sono due sentimenti fondamentali che muovono la vita e muovono la mia saga in questo caso, sono dei vettori principali proprio delle azioni umane, per cui ho voluto raccontare l'amore tra Alex e Jenny, il loro avvicinamento, il loro essere sempre stati in realtà legati l'uno all'altro, e ho voluto raccontare l'amicizia, che è un'altra potentissima forma d'amore. Quindi sì, c'è la loro ricerca, c'è il loro trovarsi, inseguirsi, perdersi anche, perché poi naturalmente si perderanno e quindi dovranno ritrovarsi in una realtà molto futura. Non è facile, insomma. Prima, all'inizio dell'intervista, definivi il tuo genere anche young adult, no? Insomma, diretto quindi soprattutto ad adolescenti, giovani, anche se nel tuo caso è diretto anche a una fascia di età più alta. Ti sei immaginato, come dire, il tuo lettore tipo? Chi è che può essere particolarmente affascinato da questa storia? Dunque, io sono solito chiamare i miei lettori viaggiatori. Cosa significa? Io ho preso in prestito questa parola da una vecchia serie televisiva, Sliders, che in Italia era stata tradotta come Viaggiatori, appunto, dove c'era il concetto di multiverso, però il passaggio da una realtà all'altra avveniva per mezzo di un wormhole, capisci? Quindi era una roba un pochino più tecnica e anche molto divertente nella serie. Ma perché sono viaggiatori i miei lettori? Perché sono capaci di vedere oltre la pellicola che abbiamo attorno. Questo è il mio lettore ideale, è il lettore che si guarda attorno e capisce che è circondato da una sottile, invisibile pellicola che però può essere sradicata da un momento all'altro per vedere cosa c'è dietro alle cose, cosa c'è dietro ai pensieri delle persone, a una frase che magari un politico dice. E, infatti ci sarà anche qualcosa di sociopolitico in questa saga, qualcosa di distopico, come si suol dire, perché mi piace, è una sfida continua per il lettore per cercare di sradicare questa pellicola e vedere una realtà che nuova. Che cosa c'è dietro? Oh, alla Matrix anche, insomma, alla Matrix. Non ci rendiamo conto. Scommetto che tu sei un fan di Lost, l'avrai visto tutto 500 Hai volte. Ho perso la scommessa. Ed è incredibile, ma non sono un fan di Lost. Non sei un fan di Lost, ma guarda, l'avrei detto. E allora, giusto per fare così un giochino con voi ascoltatori, io vi leggerò l'ultima parola dell'ultimo libro di questa saga. Non facciamo spoiler assolutamente, quindi non diciamo, però... Aiuto. Vi diciamo solo l'ultima parola. Allora, in realtà possono essere tre le parole, gettiamola così. Ecco. Potrebbe essere facendo, avvenendo, navigando. Non vincete niente se esatto. La indovinate, però insomma se vi leggete il libro perché scoprirete. Poi mi scrivono sui social, cosa ho vinto? Non si vince niente, non è un concorso, non si vince niente, è un giochino che stiamo facendo con Leonardo Patrignani, che ringrazio di essere stato con noi, ve lo ricordo, lui è l'autore di questa saga italianissima, ci tendo a sottolinearlo, Multiversum, con i tre romanzi, Multiversum, Memoria e quello appena uscito in Italia, Utopia, saga che è stata tradotta anche in lingua inglese, cosa che appunto è un punto di eccellenza per la nostra narrativa. Vi ricordo che la saga è pubblicata da Mondadori. L'amore è tutto carte da decifrare e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo da frantumare, e guai se avessi un coltello per tagliare. Beh sì, non c'era modo migliore per introdurre questo nuovo scrittore. Carte da decifrare è una delle canzoni di Ivano Fossati che personalmente amo di più. Ivano Fossati ha deciso di debuttare nella narrativa. Ha scritto il suo primo romanzo che si intitola 335, pubblicato da Einaudi ed è uscito in libreria praticamente da pochissimo. In realtà Fossati aveva scritto altre cose in passato, nel 91 Il Giullare, nel 2001 appunto Carte da decifrare, ma in realtà si trattava di un libro intervista. Insomma, questo è il suo primo vero romanzo e la sua prima vera opera di fiction, come lui stesso ci racconta. Beh sì, è il primo grande terrore, perché è stato il passaggio dall'abitudine lunghissima di scrivere le canzoni, quindi di scrivere in maniera così sintetica, il passaggio a questo spazio grandissimo che sinceramente all'inizio non ero davvero sicuro di saper riempire. Come si sa, insomma, tu dal marzo del 2012 hai dichiarato, insomma, che hai smesso di fare dischi e di suonare in pubblico, insomma, di fare concerti. Questa decisione c'entra qualcosa con l'idea di iniziare una carriera da romanziere? Ma dunque, c'entra qualcosa, perché non avrei mai fatto le due cose insieme prima, perché mi ricordo che pensavo che è già abbastanza difficile fare un mestiere decentemente, quindi ero davvero convinto che farne due fosse difficile se non impossibile. Sai, la mia non è una carriera da romanziere, cioè non è l'inizio di una carriera da romanziere, per il momento sono soltanto uno che ha provato a raccontare una storia. Da questo a essere uno scrittore ce ne corre, vedremo nei prossimi 10 anni se mi riuscirà di diventare qualcosa di, di vicino all'idea di uno scrittore, ma non lo so. A proposito di essere scrittore o meno, si sa che negli ultimi anni, insomma, ci sono molti artisti, molti musicisti che si sono dati anche alla narrativa. Temi un po' le critiche dei cosiddetti puristi, insomma, che magari apprezzano esclusivamente chi si dedica solo alla narrativa e al romanzo? Ma guarda, no, non le temo, però le capisco, perché io, che sono un lettore accanito, tenderei a pensarla così, cioè forse anch'io avrei qualche remora, anch'io amo certi scrittori e qualche volta, insomma, mi lascio intimidire dagli esperimenti di qualcuno che fa un altro mestiere, però non bisogna avere paura di niente, insomma, la verità è che se ti sembra che una storia abbia senso raccontarla e se pensi di avere la forza di farlo, insomma, puoi provare, quindi senza nessun timore. Il titolo di questo romanzo, 335, non è chiaramente un prefisso telefonico di cellulare, ma indica il modello di una chitarra, insomma, che tu stesso hai suonato diverse volte. Racconta la storia, appunto, di un ragazzo, di un musicista, di un chitarrista che dal Piemonte, dove viene costretto, insomma, a fare degli studi che lui non ama, alla fine si trasferisce negli Stati Uniti, insomma, e succedono diverse cose che dovrà affrontare. Come ti è nata l'idea di questa trama? Ma è veramente nata, come dire, dal fondo, dal contrario. Allora, lui racconta la sua storia quando ormai ha oltre 70 anni, perché teme di vedere svanire la sua vita dentro la sua memoria. E così, con fatica, perché lui non è uno che ha studiato, cerca di scriverla, di ricordarla tutta la sua vita a favore, a uso e consumo delle ultime due persone che ama, che sono naturalmente il figlio, già grande, già un uomo fatto, che vive lontano da lui, vive in Inghilterra, mentre lui sta in America, e il nipote che vive a Torino, un ragazzo più giovane che lui ama molto. Cerca di raccontare a loro la sua vita perché pensa che dentro una confessione ci possa essere l'embrione anche di un perdono, per esempio il perdono del figlio che lui non è mai riuscito ad amare come avrebbe voluto, e poi perché pensa che forse in qualunque vita non tutto è da buttare via e non tutto è da dimenticare. E così inizia il racconto da quando è ragazzo, come dicevi tu, da quando ha 10 anni negli anni 50 fino al 2010. Infatti nel preambolo, diciamo, prima dell'inizio dei capitoli, questo personaggio parla in prima persona, Vittorio, e si capisce, insomma, che confessa di non essere stato un buon padre, probabilmente di non essere neanche un buon nonno, insomma sta in qualche modo analizzando anche tutti gli errori della sua vita. Sì, lui sta analizzando, li cerca di farli tornare alla mente, senza reticenze, senza la minima reticenza, ha fatto moltissimi errori, però poi, come si vedrà, appunto, come dicevo prima, anche nella vita di Vittorio Vicenti non tutto è da buttare, senza contare che poi alla fine, con l'aiuto di una donna, proprio nell'estrema parte del romanzo, ci sarà un riscatto inaspettato. Io non chiedo mai agli scrittori, insomma, se i romanzi sono autobiografici, perché, insomma, secondo me è una domanda banale, cioè, c'è sempre un po' degli scrittori in tutto quello che scrivono, però, insomma, Ivano Fossati, musicista, cantautore, compositore di canzoni, strafamoso, che fa un romanzo di fiction e però parte da un protagonista che a sua volta è un musicista, suona la chitarra, eccetera. Insomma, a questo punto almeno ci devi dare qualche indizio se c'è qualcosa di te in questo Vittorio o no. Guarda, capisco perfettamente che il sospetto, insomma, si faccia avanti, però sono stato davvero attento a che non ci fosse niente. Perché? Allora, intanto perché mi sembra che scrivere di se stessi sia anche troppo facile. Un po' per questo, un po' perché di libri, come dire, che parlavano di me, delle mie vicende, anche della mia vita, ne sono usciti, secondo, per il mio gusto, anche troppi. Non mi sarei mai permesso di riscrivere un'altra volta cose che mi riguardavano. E poi c'era una cosa, mi appassionava durante la scrittura l'idea che fosse tutta fantasia. A un certo punto proprio era era questo che mi piaceva, mi appassionava tanto, cioè che fosse la fantasia a correre, e quindi no, assolutamente no. Sono stato molto attento a che non ci fosse niente nel libro che mi riguarda. E amarti per ore, ore e ore, e ucciderti all'alba di altro amore, perché l'amore è carte da decifrare, e lunghe notti e giorni da calcolare, e se l'amore è tutto segni da indovinare, perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare. E allora questo era un assaggio del libro di Fossati 335 pubblicato da Einaudi. Vi posso promettere però sicuramente che avremo anche un'intervista più estesa con Fossati quando avremo l'occasione di incontrarlo di persona. Insomma, per il momento però ci faceva piacere iniziare già a parlare di questo romanzo. Siamo in compagnia, almeno telefonica, insomma virtuale, con Marino Sinibaldi, che è l'anima, diciamo il creatore di una manifestazione molto bella, Libri Come, che si terrà a Roma il prossimo fine settimana, precisamente da giovedì 13 a domenica 16 marzo. Marino, quando parliamo di manifestazioni che interessano i libri, festival letterari, festival culturali, uno ha sempre l'impressione che possano essere un po' tutti uguali. Qual è la filosofia che c'è dietro Libri Come? Beh, fin dall'inizio appunto è quella di differenziarsi dagli altri festival, ma non per polemica, ma per la ragione che giustamente sottolineavi. Siamo un paese dove ce ne sono moltissimi in Italia, sembra inversamente proporzionale al numero dei lettori quello dei festival, e quindi qualche problema di identità ogni festival ce l'ha. E poi perché appunto non ci andava di aggiungere un altro evento. Vedi Alessandra, i festival noi ne frequentiamo diversi, sia io che te, poi alla fine come operatori, informatori e spesso anche come lettori cerchiamo il grande nome, il grande scrittore. Ora questa logica, che è giusta perché dà voce a un desiderio profondo che hanno i lettori e in qualche modo rende giustizia al fatto che il lettore, come l'appassionato, non differentemente dal fan di musica rock o dal tifoso di calcio, ha piacere di incontrare l'autore che ha amato, che ha letto. Però ecco, non ci andava solo di aggiungere un altro luogo dove c'erano grandi scrittori. Io penso di poter dire che quest'anno i grandi scrittori ci sono, adesso scorre il programma. Sì, no, no, ci sono, infatti. Però l'idea è diversa, è quella di offrire un luogo anche di riflessione. Infatti quest'anno, come già l'anno scorso, c'è un tema, quest'anno il tema del lavoro, l'anno scorso era stata l'Europa, intorno al quale in qualche maniera sfidiamo i nostri ospiti a dire cosa possiamo aggiungere, come possiamo rispondere a quella che è una domanda del lettore. Il lettore è uno che nel libro cerca giustamente anche un'evasione, ma poi si porta dentro le stesse domande, le stesse inquietudini o le stesse attese che ha in tutta la sua vita. Quindi ci sembra che mettere al centro di un festival un tema come quello del lavoro e intorno a questo tema organizzare molti incontri sia anche un modo per segnare la differenza tra Libri Come e altre manifestazioni. Tu hai fatto anche un po' il modesto, perché insomma sembra quasi che a Libri Come non ci siano grandissimi scrittori. Adesso guarda, ne cito qualcuno così a caso: David Grossman, Giunta Lahiri, una scrittrice che ormai vive in Italia da un paio d'anni che amo moltissimo, John Grisham, poi fra gli italiani Andrea Camilleri, Sandro Veronesi, Francesco Piccolo, che lo sappiamo è in odore di premio strega, Massimo Carlotto, Melania Mazzucco, Francesco Guccini, Vanno Fossati, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Vabbè, questo mi fa piacere che l'hai notato, e aggiungerei, se vuoi, i grandi saggisti, Richard Sennett in apertura, che è uno studioso del mondo del lavoro un po' sottovalutato in Italia, anche se i suoi libri sono usciti, l'ultimo che si chiama Insieme è secondo me il libro più bello uscito in questi anni, Jared Diamond, che con Armi, Acciaio e Malattie scrisse un libro meraviglioso. Sono punti di osservazione diversa, io non nego che, immagina, sono contento che l'hai notato, ma non vorrei esibire tanti grandi nomi, anche se credo che il pubblico legittimamente si attenda a quelli, quanto per rispondere a una tua domanda, che è proprio la domanda che ci siamo posti inaugurando, diciamo, questo festival, questi festival 5 anni fa, quanto cosa, come evitare di aggiungere solo un'altra parata di scrittori, dare un'identità a un festival, poi una grande città come Roma è ovviamente più necessario. Secondo te che cosa cerca il pubblico di Libri Come quando viene al vostro festival, alla vostra manifestazione? Ma cerca di tutto, vedi, il termine Libri Come po' enigmatico, lo ammetto, deriva dal fatto che io, insomma, tanti anni di lavoro, come sai, soprattutto alla radio, mi sono interrogato un po' sul fatto che il lettore in realtà porta un sacco di domande mentre legge un libro, un sacco di attese, da quelle più ovvie che non sono banali, conoscere lo scrittore, sapere cosa pensa, a quelle di condivisione. Noi facciamo molto raccontare agli scrittori le loro letture, cioè come si diventa scrittori, come si continua a coltivare questo piacere, e attraverso lo scrittore come lettore si cerca anche un'affinità tra il lettore e lo scrittore, perché condividono le stesse esperienze, gli stessi gusti. Quindi da quel livello di curiosità, che non considererei banale o tantomeno demonizzerei, che il lettore ha le domande più alte, perché il lettore a cosa aggiunge uno scrittore al nostro patrimonio di letteratura? Perché c'è bisogno che, per esempio, sul lavoro, dopo grandi libri che sono usciti negli anni o nei secoli scorsi, abbiamo bisogno di altri libri? C'è uno spettro, insomma, di attese. Per esempio, noi siamo anche molto attenti a come cambia il libro come oggetto, a come in questi anni è cambiata la lettura con le nuove tecnologie, siamo attenti anche alla crisi che c'è nel mondo del libro e dei lettori, è un settore, come sai, in grande difficoltà. Poi segnalerei una cosa che fonde un po' questi aspetti, Alessandra, cioè il fatto che la sera finale, domenica, per la prima volta si chiuderà con una sorta di serata spettacolo omaggio al mondo del lavoro, con molte voci musicali, letterarie, teatrali, che porteranno lì una loro lettura, un loro pensiero, appunto una loro idea del lavoro. Sarà soprattutto il modo per dire: ma cosa le arti, le varie arti hanno da dirci, in forma anche spettacolare, mica gli chiedo dei saggi o dei momenti particolarmente pensosi, ma cosa hanno da dire a questa attenzione che è cruciale al tema del lavoro. Ecco, abbiamo cercato nell'ultima serata di fondere un'attenzione al tema anche con un'innovazione nel linguaggio, perché anche questo è un problema, no? Non possiamo continuare a dire cose nuove con un linguaggio vecchio. Grazie allora a Marino Sinibaldi, che insomma ci dimostra anche, stiamo dimostrando, Marino, che l'amore per i libri è trasversale, perché tu sei il simbolo ovviamente di Radio 3, io Radio 24, però insomma superiamo questi steccati inutili, perché dobbiamo parlare di libri, ci piace parlare di libri. Marino Sinibaldi, che è l'organizzatore, il creatore, insomma l'anima di questa manifestazione Libri Come, dal 13 al 16 marzo a Roma, all'Auditorium a Parco della Musica. Ed è tutto per questa edizione del Cacciatore di Libri. Grazie in regia a Roberto Scaltritti. Vi ricordo come sempre che ci trovate su Twitter come Ale Teddina, su Facebook come Il Cacciatore di Libri e naturalmente anche su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.